Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Sono passati i tempi in cui il calcio d'agosto non contava, oggi conta e come. I punti d'agosto pesano esattamente come quelli di novembre o di febbraio, anche se poi il clima non è ancora certamente il più indicato per giocare a pallone. Proviamo a giocare anche noi e proviamo con i più e i meno della domenica, per esempio. Anzi, più che della domenica, del fine settimana calcistico, in maniera da comprendere anche il derby. Io me ne propongo alcuni, poi toccherà a voi, come ogni lunedì, che ormai da 10 anni a questa parte, sottolineo 10, siete abituati a interloquire, magari anche a giocare in qualche caso, a patto ovviamente di prenotarvi. Allora, visto che è per me il primo giorno di scuola di questa nuova stagione, vi ricordo per una volta il numero verde, che è 800 24 0024. Vi ricordo anche l'altra opzione, che è quella dei messaggi, degli sms al 349-238-6666. L'ulteriore possibilità, già che ci siamo, è quella via mail, possibilmente sintetiche, insomma, se non sono romanzi è preferibile, all'indirizzo di posta elettronica a temporisport@radio24.it. Nei limiti del possibile e con una tempestività non sempre assoluta, ho l'abitudine, la buona abitudine, di rispondere a tutti i messaggi che arrivano anche per mail. Dunque, i più di giornata. Io ci metterei in ordine sparso, non necessariamente cronologico, anche se nel primo caso l'ordine cronologico è rispettato. Ci metterei 2 gol di Diego ieri all'Olimpico, perché dentro c'è tutto, c'è la velocità dello scatto, c'è la velocità prolungata, c'è la forza fisica nel resistere al ritorno degli avversari, nel caso del primo gol di Riese, c'è l'astuzia, c'è soprattutto una tecnica di primissimo ordine nella conclusione in porta, anche del secondo gol, ma soprattutto del primo. C'è il primo gol dell'Inter sabato sera, targato Genova, targato G, perché Milito Motta, forse i due migliori in assoluto, tra l'altro dei protagonisti di questo trionfo nerazzurro sul Milan. Poi ci sono il Genoa e la Sampdoria in testa alla classifica, e questa è una novità assoluta per la storia del campionato, perché insieme non c'erano mai state. La Sampdoria non vinceva le prime due partite dal 94, e sono 15 anni e non è poco. Al Genoa non succedeva dal 1947, e quindi è già un pochino di più, ma insieme Genoa e Sampdoria non hanno mai vinto le due partite in programma nelle due prime giornate. Aggiungerei l'assist a proposito di Sampdoria, l'assist di tacco di Cassano, seguito poi da un bel gol. Se Cassano comincia così la stagione, ho l'impressione che diventa felice per lui e un po' più complicata per Lippi in prospettiva. E poi questa grande prodezza di Quagliarella, che ha colpito la traversa anziché segnare, ma con un colpo straordinario da poco oltre metà campo, a cui Quagliarella per la verità ci aveva, non dico abituati, ma insomma per lui non è inedito, così come per Mascara, l'altro specializzato in questi colpi da lontanissimo del Catania. Ho appena letto su un'agenzia che a Napoli gli hanno già dedicato una pizza speciale, perché Quagliarella è il nuovo idolo dei napoletani. Se questi sono i più, sui meno, uno è indiscutibile, secondo me, la mise da turista di Seedorf in panchina sabato sera. Credo sia degna di gag o comunque di partite tra scapoli ammogliati, con la differenza che poi alla fine, se anche tra scapoli ammogliati, si fanno i conti se qualcuno si fa trovare in panchina a quella maniera. Direi anche la sceneggiata di Gattuso, comunque pubblica, così come la sua entrata precedente su Sneijder, gli era appena stata risparmiata un'espulsione. Insomma, uno può essere infortunato o nervoso, ma se è il capitano in una squadra, oltre che uno con una discreta esperienza internazionale, quell'entrata a metà campo sinceramente se la risparmia. Se parliamo di entrate, la cosa peggiore in assoluto della giornata è il fallo di Pieri su Gargano, un livornese Pieri sul napoletano Gargano ieri sera, proprio nel finale di partita, con un rischio altissimo di spezzare la gamba all'avversario. Se parliamo invece di errori da campo, Cassetti che dribbla a metà campo, che dribbla Diego a metà campo senza aver dietro nessuno, siamo di nuovo non lontanissimi dagli scapoli e dagli ammogliati. Ho visto un brutto tuffo in aria di Cavani, Palermo, alla ricerca di un inganno all'arbitro. Se vogliamo tornare a Milano, ho visto anche un rigore chiesto da Ronaldinho, che appartiene sinceramente al patetico. E chissà quanto altro poi che, come dicevo all'inizio, sarete voi a segnalare nel corso del programma. Mentre vi prenotate, facciamo un po' di riascolto delle voci della domenica, cominciando probabilmente dalla più felice di tutte, che è quella di Ciro Ferrara. È un giocatore che tecnicamente è fortissimo, è molto dotato, però nonostante queste sue spiccate doti tecniche, riesce ad essere molto utile anche in fase difensiva alla squadra, e noi chiaramente, giocando con tre giocatori lì davanti, abbiamo bisogno che tutti quanti collaborino nella maniera dovuta. Io penso che quando un giocatore resta fuori, e quando parliamo chiaramente di un giocatore come Alessandro, non possa essere felice di essere rimasto fuori. Io di sicuro, poiché adesso ci saranno le nazionali e poi si comincia a giocare domenica e mercoledì, chiaramente ci sarà spazio e Alessandro avrà la possibilità, e Diego avrà la possibilità di giocare anche con Ale. È chiaro che il suo umore non poteva essere, insomma, alle stelle. In questo mi sembra normale, così come non lo può essere anche per altri giocatori che ho dovuto lasciare fuori. Però io oggi ho fatto questo tipo di scelta, e la scelta chiaramente non potrò mai farla con il cuore, ma devo farla con il cervello. Come è giusto e inevitabile che sia, in un posto di responsabilità come una panchina, poi nella fattispecie quella della Juventus, ma direi qualunque panchina. Sentiamo qualche altra voce contenta della domenica, per esempio quella che ne ha ben d'onde, mi pare, quella di Gasperini. Ah sì, è un po' presto, però è piacevole, insomma, anche perché insomma sono solamente due giornate, però arrivano anche insieme alla qualificazione che abbiamo ottenuto per il girone in Europa, quindi... meglio di così non potevamo iniziare, anche se abbiamo fatto una partita principalmente difensiva, però insomma credo che il risultato, soprattutto nel finale, poteva essere anche incrementato meglio, ma la prestazione lascia incoraggiare. Non capita spesso che una squadra che ha fatto così bene in maniera così sorprendente l'anno precedente, sto parlando del Genoa, eccede i suoi due, indiscutibilmente i suoi due uomini migliori, perché dicevo prima di come la fase iniziale, la fase decisiva della vittoria dell'Inter sul Milan sia targata Motta e Milito, quindi sia targata Genova. Non capita spesso, dicevo, che una squadra che cede le sue due pedine principali l'anno dopo riparta come niente fosse, proponendo un sacco di facce nuove, ma insomma adesso poi andranno messe a fuoco con calma, ma certamente tutte che sembrano avere il loro perché, già sia nello scacchiere di Gasperini sia dal punto di vista delle qualità individuali. Beh, non può non essere altrettanto di buon umore, immagino, l'altro allenatore genovese, che invece è un debuttante, ieri sera ha debuttato sulla panchina blucerchiata di Marassi, che è del Neri. Abbiamo la nostra filosofia di gioco, la manteniamo sempre, sappiamo che qualcosa concediamo sicuramente, concedere l'Udinese è anche giusto, perché l'Udinese è una squadra molto grande, molto forte, molto lineare, ha giocatori importanti, nazionali, e quindi è chiaro che da questo punto di vista la squadra è stata molto attenta e ha vinto in modo meritato. È maturato, in quel senso lì è più disponibile, lavora molto, un ragazzo che aiuta molto nelle chiavi di schermo difensivo i propri compagni, sia lui sia Pazzini, ma è un lavoro che devono fare, appunto, già ad oggi devono essere partecipare anche alla chiave difensiva. Loro lo fanno bene, mantengono sempre l'assetto di giocatori d'attacco, insomma, non chiaramente corrono dietro i giocatori nella metà campo altrui, insomma. Abbiamo sentito Ferrara, Gasperini, Del Neri, manca un allenatore capolista, e adesso, chiedendo scusa un attimo a due o tre ascoltatori che erano intervenuti con grande tempestività, ma insomma mi piaceva almeno prima completare il quadro degli allenatori che sono in testa della classifica, e quindi tocca adesso a Ballardini. Siamo venuti qua a Verona contro una squadra che nel girone di ritorno l'anno scorso, non so, ha fatto quasi 30 punti. La prima di campionato non credo, perché a detta vostra non credo meritasse di perdere contro la Juventus, quindi stavano bene fisicamente, pieni, giocano un buon calcio, fatto di aggressività, fatto di forza, anche di qualità. E la Lazio oggi ha tenuto bene il campo fino a quando siamo stati in parità numerica. Credo che nel gioco forse sia stata più brava la Lazio, 11 contro 11. Poi dopo, con un giocatore in meno, abbiamo sofferto come ci sta a soffrire in casa del Chievo contro questa squadra. insomma, per la verità la vittoria della Lazio è stata abbastanza fortunata, così come non era stata sfortunata quella della partita d'esordio contro l'Atalanta, e così come non le era girata male la finale di Supercoppa a Pechino contro l'Inter. Però è anche vero che sono 3 vittorie su 3, che quella volta c'era di fronte l'Inter, non il Chievo, e che in palio c'era anche un trofeo. Quindi la Lazio un occhio di riguardo certamente lo merita, come lo merita Ballardini. Tocca a Mario dalla provincia di Milano. Buongiorno. Sì, buongiorno, bentornato signor Garantini. Grazie Mario. Sì, io volevo dire che ho visto la partita Milan-Inter, poi sì, ho visto Roma-Juventus e ho visto Napoli-Livorno. Sì. E nei più metto anche Collina e i suoi arbitri, perché hanno veramente arbitrato come piace a me, all'inglese. Hanno fischiato pochi falli, hanno lasciato andare via tutti quei mezzi interventi, mezzi falli, sempre che fischiavano fino all'anno scorso. Volevo sapere cosa ne pensa lei, l'ascolto in radio, grazie. Grazie a lei Mario, penso che abbia ragione, condivido in pieno quello che dice, c'è un arbitraggio molto più sciolto, molto più europeo da questo punto di vista, è un fatto positivo. Quando poi ha cominciato così Rocchi per esempio ieri all'Olimpico, poi quando qualcuno se ne stava approfittando invece ha cominciato a cacciare come era giusto i cartellini. Trovo, aggiungerei, che mi sembrano particolarmente in forma anche gli assistenti, ho visto pochissimi errori, ma proprio un numero irrisorio, ma poi errori, valutazioni insomma, che soltanto l'occhio elettronico, di cui soltanto l'occhio elettronico riesce a cogliere l'errore dopo magari vari tentativi e comunque per questione di millimetri, se una volta era un centimetro adesso sono millimetri. Quindi la stagione è cominciata bene, l'importante è che continui così, l'importante è che ci sia, a parer mio, una cosa che manca ancora un po', che è la severità, una severità più ferma nei confronti del gioco duro, ma del gioco violento, non del gioco duro. E mi riferisco per esempio a Gargano, che ieri lo so che è una quisquiglia, ma Pieri ieri sera il Livornese è stato espulso formalmente per doppia ammonizione, perché gli è stato mostrato prima il secondo cartellino giallo e poi di conseguenza quello rosso. Quello è un fallo da rosso immediato e insomma come minimo, così come sarebbe stato da espulsione una settimana prima il fallo di Materazzi a San Siro, oggettivamente, ed eravamo ancora poi tra l'altro nel primo tempo. Franco è in linea da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Granzini, bentornato. Grazie. Ci mancava. Senta, io devo fare i complimenti per la trasmissione, perché lei è un mago, perché già a maggio aveva previsto tutto quanto. Cioè? Dai primi di maggio, cioè che Ibrahimovic sarebbe andato via e Kakà pure. Perciò devo dirle che lei è perfettamente il migliore giornalista. Oltretutto, tutti i suoi libri, e posso dirle che specialmente l'ultimo è stato bellissimo, ecco, e nient'altro. E poi un'altra cosa, sono juventino, ma comunque piedi per terra, perché è lunga la strada e il distacco è ancora molto notevole con l'Inter, ecco. Nient'altro, ascolto e arrivederci, auguri. Franco, grazie di tutti i suoi complimenti, soprattutto quello per i libri, sono davvero molto, molto graditi. Su Ibrahimovic e Cacano non serviva essere un mago per indovinare, perché insomma era evidente l'intenzione del giocatore dell'Inter di voler cambiare aria da una parte, della società Milan dall'altra parte, di liberarsi di rientrare da un punto di vista finanziario. Insomma, erano due progetti abbastanza dichiarati, poi al di là delle smentite tattiche o di comodo, insomma non serviva un mago. Sono d'accordo con lei che la Juve non ha il potenziale dell'Inter, nonostante Diego indubbiamente gli abbia fatto fare un grande salto di qualità dal punto di vista tecnico, però la completezza della rosa e la qualità di molti singoli e complessivamente dunque anche dei reparti, con poche eccezioni, mi sembra che ci sia ancora una discreta differenza, sicché la Juve deve giocare con un'applicazione superiore secondo me all'Inter per sperare di batterla e sperare di arrivarle davanti. Lo scorso anno la mise molto sul piano atletico, no? Lei ricorderà che fino al tracollo di primavera il gap, cioè Ranieri aveva pensato di colmarlo con la corsa, essenzialmente con la corsa e con l'agonismo. Quest'anno mi sembra che stiano correndo un po' meno, e questo potrebbe essere appunto un buon segno in prospettiva, perché poi come sempre le stagioni si orientano prima, ma si decidono a primavera. C'è un bolognese, Matteo, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Io volevo fare una mia personale puntualizzazione, sono un tifoso del Milan e la mia personale puntualizzazione è che non è stata sbagliata la campagna acquisti quest'anno, perché secondo me non è stata proprio fatta, ha tolto un acquisto che è Huntelaar, quindi abbastanza giovane e con un repertorio almeno sulla carta di gol segnati interessante, ma è ogni anno che si sbaglia la campagna acquisti degli ultimi 3 o 4 anni. Ancelotti chiedeva una punta forte e gli arrivava un trequartista avendo già Kaká, è arrivato Ronaldinho e oltre a ciò si è sempre guardato a, le chiamiamo figurine, perché figurine della Panini, più che a giocatori realmente interessanti, realmente utili alla squadra. Il problema è questo, si è preso Zambrotta con tutto rispetto sembra attualmente un quarantenne, non è più il Zambrotta del 2006 e non sono passati 10 anni, quindi Jan Kulowski non è la sua posizione e gioca da 3 o 4 anni in difesa, ma non è, è mai possibile che una società come il Milan con un presidente importante a seguito, importante per dire ricco a seguito, debba sempre fare delle scelte, delle campagne acquisti sbagliate, fondamentalmente tutti gli anni, negli ultimi 4-5 anni sbagliate. Matteo, grazie, direi che il suo intervento in ampia parte è condivisibile. Stefano, provincia di Pavia, buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo chiedere un parere a livello di calcio internazionale, vado un po' fuori dal giro, riguardo all'allenatore del Bayern Monaco Van Gaal. Personalmente lo ritengo, insomma, è un po' sopravvalutato. Volevo sapere un suo parere. Ma lo girerei a Fabio Tavelli o in alternativa a Nicola Roggero, che insomma, come lei saprà, se ci segue da qualche tempo, sono i nostri esperti di calcio internazionale. Io le posso dire che insomma, dopo tre giornate, se parliamo di Bayern Monaco, dopo tre giornate è un po' prestino per una valutazione, per valutare il lavoro di un tecnico che oggettivamente è appena arrivato. Il passato di Van Gaal è fatto di luci e ombre, di grandi luci e di qualche ombra. Certamente io immagino che la fase ascendente di questo allenatore sia alle spalle, però questo non significa che non possa più essere all'altezza di una panchina come quella del Bayern. Io più in generale, ma questo vale anche per i nostrani nel senso dei Mourinho, ma anche dei Ballardini, degli Allegri e di cose, io penso che la figura dell'allenatore sia sempre un pochino sopravvalutata in rapporto ai risultati. Ci può essere un bel lavoro di fondo e allora su quello si valuta, e si valuta nel tempo. Legare i risultati, soprattutto se sono i primi di stagione, a un allenatore, ma insomma è uno sport sempre abbastanza discutibile dal mio punto di vista. Pesano molto più i giocatori in campo che non i tecnici in panchina. Questa è sempre stata la mia opinione, non è ancora arrivata dal mio punto di vista arrivato il momento di cambiarla. Valerio ha chiamato da Palermo, buongiorno. Buongiorno, allora salto i complimenti, sono meritati. Beh, invece le è saltato uno starnuto o cos'era, mi scusi? Ah no, un colpo di tosse. No, vabbè, auguri. Non... le chiedo scusa. No, ma per carità, era sembrato uno starnuto esplosivo, se succede. No, poi fuori stagione sono pure peggio, quindi... No, sono un colpo di tosse. Comunque, cerco di andare subito al sodo. Sì. Allora, ho notato, come posso dire, tutto l'episodio, l'espulsione di Gattuso, Seedorf, rinciabatte, eccetera, eccetera. E mi sembra un po' strano vedere certi episodi, a parte i giocatori comunque con una certa esperienza, diciamo. Cioè Gattuso e Seedorf non giocano in Serie A da ieri. Ecco. No. E mi sembra, secondo me possono essere anche degli... episodi che indicano, insomma, uno spogliatoio che possa o non essere integro o comunque non seguire così del tutto l'allenatore, perché insomma Gattuso perde i nervi, gli saltano i nervi e va con l'entrata lì, tra l'altro comprensibile visto che era lì praticamente su un piede solo in campo. È su piede solo, ma Snyder è a 50 metri dalla porta, però, eh? E lui è appena stato graziato da cartellino rosso, quindi è lì che un giocatore normale, non dico d'esperienza, si evita quell'entrata. Comunque, Valerio, il concetto che lei vuole esprimere è chiaro. Io penso questo, che il Milan fosse abituato da anni ad un grande gestore di, io dico anche di partite, di tecnica e di tattica, ma certamente di situazioni, di ambiente e di rapporti. Questo gestore si chiamava Carlo Ancelotti, era bravissimo nell'ovattare certe cose, nel portarne in superficie, nel farne portare in superficie poche, proprio lo stretto necessario, quando proprio una situazione non era più possibile difenderla o coprirla. Però, dato che dal suo presidente è stato fatto passare come il deficiente della compagnia nella scorsa stagione, lui ha preso atto di questa valutazione padronale e se n'è andato altrove. Poi il fatto che dove è andato stia più o meno facendo in maniera discreta è una conferma in più che probabilmente il suo datore di lavoro, per una volta nella vita, può capitare, no? Anche agli unti del Signore, per una volta nella vita potrebbe aver sbagliato, anche se poi la controprova non c'è ancora. Sentiamo una voce triste invece rispetto a quelle che abbiamo sentito prima, e cioè quella di Spalletti. Allora hanno esibito più continuità, più forza nella continuità. Noi a Spazio abbiamo fatto delle buone cose, un po' sfortunati in qualche episodio che poteva determinare poi qualcosa sul risultato, però poi questo è il risultato finale. Diciamo che non siamo stati poi avvantaggiati da qualche condizione fisica di qualche giocatore, se avevamo recuperato, però poi, come si è visto da ultimo, poi sono 10 minuti che hanno nelle gambe il quarto d'ora, non hanno la possibilità, giocatori che diverso tempo che mancano, non hanno la possibilità di andare a incidere poi nell'ora di gioco, ecco. Diventa facile poi, quando ci prendi gol a un episodio del genere, andare a trovare il negativo, quello che bisognava far meglio, ecco. A me dispiace, il ragazzo gli è successo involontariamente, certo. E lui è mortificato, per cui mi dispiace, basta. Situazione pesante a Roma, tra l'altro già dopo 2 giornate, con lo stesso Spalletti sotto accusa da parte della tifoseria, così come la società. Ma notizia dell'agenzia informa che sono 53 i tifosi palermitani denunciati per aver lanciato 4 petardi ieri, prima di Fiorentina-Palermo, mentre scortati dalla polizia raggiungevano lo stadio. Il bello è che hanno tirato i petardi nonostante fossero scortati dalla polizia. Accuse di possesso e lancio di materiale esplodente e lesione a pubblico ufficiale. Per 2 tifosi è già stato applicato un DASPO di 5 e di 3 anni rispettivamente. Uno di questi 2 tornava in uno stadio per la prima volta dopo anni di DASPO, e altri 15 denunciati erano già stati colpiti da DASPO in precedenza, che vuol dire, insomma, che evidentemente migliorare per certa gente non è semplicissimo. Nicola, Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo intervenire riguardo al Milan. Sì. Il Milan nei giorni scorsi ha ricevuto la doppia visita di Kakà, che ha salutato tutti, grandi auguri, eccetera. Ha ricevuto la visita di Maldini, che anche lui ha fatto tanti auguri, ha salutato tutti. Io ritengo che per questo Milan, così in crisi di identità, così incerto per il futuro, così schiacciato da questo grandissimo passato di vittorie, eccetera, sia addirittura un segno negativo. Cioè, io se fossi Leonardo direi a Kakà, direi a Maldini, grazie di tutto, però lasciateci lavorare, insomma. Questo. Beh, dipende, Nicola, mi sembra un po' severo come atteggiamento. Cioè, il momento è delicatissimo per il Milan, assolutamente delicato. Beh, ma non credo che siano andati né Kakà né Maldini né tantomeno Kakà che siano andati con l'atteggiamento del corvo che volteggia, no? No, questo evidentemente no, perché mi sembra come invitare la ex fidanzata al proprio matrimonio, mi sembra, a un certo punto guardiamo avanti, ecco. Questo dicevo. Sinceramente non capisco, anzi io credo che dovrebbe far piacere, dovrebbe rappresentare uno stimolo, non lo so, può anche darsi che abbia ragione lei, intendiamoci. Ma anche, io credo, mi scusi, il confronto impietoso con chi ha preso il posto di Maldini, chi dovrebbe prendere il posto di Kakà, eccetera, insomma. Sì, non lo so, cioè io la penso diversamente. Supponiamo che da un punto di vista ambientale questo sia stato, non lo so, inopportuno, come lei dice, o tempestivo, e ripeto, io non la penso così. Rimane il fatto che stiamo parlando di pagliuzze, no? Rispetto alle travi. Che dice? Con evidenza, sì, non è davvero sì. stato un elemento così negativo che ha condizionato la partita. No, appunto, cioè, nella lunga opera di ricostruzione, anche se mi consente, nell'animo di questa squadra e di questa società che deve cominciare a guardare al futuro, perché dare un po' di prospettiva comprando qualche giovane, fanno qualche colpo di mercato, diciamo non diciamo, ecco, forse dannoso evidentemente no, quantomeno... Magari inopportuno, dice lei, in questo momento particolare. Vabbè, Luca da Roma, buongiorno. Buongiorno, salve. Dica. Io intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. E, dopodiché volevo avere una sua opinione sulla Lazio. Sì. Nel senso che io ho visto le prime partite, partendo diciamo dalla Supercoppa con l'Inter, eccetera, in cui mi è sembrato, almeno da quello che ho visto, insomma, che la Lazio giochi sempre con qualsiasi, diciamo, con tutte le squadre che ha incontrato, quasi in netta inferiorità, diciamo, tecnica, e però diciamo, mostra questo carattere, per cui anche in situazioni come appunto la partita di ieri, che è riuscita in svantaggio e in 10 a recuperare, a vincerla. Quindi volevo sapere, secondo lei, se può durare, se può appunto questa situazione comunque migliorare. Insomma, migliorare non lo so, cioè può migliorare qualitativamente dal punto di vista del no, gioco. No, ecco, migliorare come affidamento, come gioco, insomma. Ecco, perché dal punto di vista dei risultati, se migliora, allora oltre alla Supercoppa vince anche qualcos'altro, no? Cosa che, insomma, non... L'altro anno ha vinto la Coppa Italia, per la verità, e apposta si è giocata la Supercoppa, ma insomma non credo che le ambizioni possano poi essere eccessive. Evidentemente è una squadra che ha un'anima, che sa soffrire, che sa gestire i momenti di inferiorità, anche netta, come è stato in certe fasi della partita di Pechino. E che ieri fosse inferiore tecnicamente a Chievo non lo direi proprio, semmai ha sofferto certe fasi della partita e certi momenti di miglior condizione atletica forse degli avversari. Evidentemente Ballardini sta facendo un buon lavoro, ma non è nemmeno difficile, però, quando si viene dietro un altro tecnico come Delio Rossi, che ha fatto un signor lavoro in questi anni, e quindi credo che i meriti ci siano dei meriti lontani di Rossi e ci siano dei meriti recenti e attuali, che sono certamente di un tecnico, tra l'altro, molto ma molto maturo e molto ma molto bravo anche dialetticamente, che è Ballardini. Fedele ha chiamato da Verona, buongiorno. Buongiorno e bentornato, dottore. Grazie a lei. Io volevo portare la sua attenzione per un secondo, sempre se è possibile, sulle simulazioni in aria, che secondo me in area andrebbero punite come fuori dall'area, per carità, però ultimamente si sta vedendo di quelle cose che rasentano il ridicolo e giocatori che non vengono minimamente colpiti, che secondo me è una mancanza di rispetto peggio di una gomitata nel naso, perché quel Cruzi ieri sera va giù che sembrava colpito da, non so, Ronaldinho stesso. Io sono interista, per carità, e non è neanche tanto giusto che parlo di Ronaldinho. Poi le volevo dire un'altra cosa, la grande rinascita dei nostri portieri, che però appena vengono chiamati in nazionale fanno quello che fanno, vedi Amelia l'anno scorso e vedi Marchetti quest'anno, sì che magari è meglio che non li chiami, perché ho visto dei gran portieri ieri in tutte le partite, ho visto delle gran belle parate. E per ultimo volevo fare una tiratina d'orecchie, che lei non mi può paragonare l'entrata di Pieri con l'entrata di Marco Materazzi. Io sono interista, per carità, e magari parlo, però l'entrata di Materazzi era sul pallone, era in velocità. No. L'entrata di Pieri è molto più brutta ed è molto più pericolosa, ma l'entrata di Materazzi è un'entrata a forbice, dove c'è dentro il pallone e due gambe, no? Ed è un'entrata classica da espulsione. Poi che quella di Pieri fosse ancora più brutta è indiscutibile, ma che quella di Materazzi fosse brutta abbastanza da integrare l'espulsione, mi pare che fossero d'accordo a suo tempo, stiamo parlando della scorsa settimana, fossero d'accordo tutti i commentatori. Lei parlava di portieri prima, indubbiamente non sono pochi quelli che stanno brillando, un Emirante per esempio, portiere del Parma, ieri sera certo che Castellazzi ha salvato la partita della Sampdoria, perché nei momenti migliori, dopo il vantaggio sampdoriano, nei momenti migliori, durante la sfuriata dell'Udinese, Castellazzi ha veramente parato di tutto, ed è ovvio che avere un portiere che ti che ti fa superare la fase di inferiorità e di reazione degli avversari e te la fa superare indenne, beh, insomma, cambia la musica. Floriano ha chiamato da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo dire che fra i più della giornata, secondo me era da inserire anche Jovetic, che ovviamente per chi non ha visto la partita magari ha visto solo le due azioni, però ha fatto una partita incredibile, e anche Chiaer, che se quelli fanno i suoi standard può diventare uno dei difensori più forti al mondo, perché ieri ha fatto una partita incredibile anche Chiaer. Si è anche fatto rilanci, si è messo a posto del portiere, ha chiuso Gilardino ovunque, ha retto l'intera difesa del Palermo, altrimenti finiva con punteggio tennistico ieri. Tennistico ci andrei pianino, perché ho visto anche qualche attacco del Palermo. Tennistico potrebbe essere 6-4, allora, ma certamente non sei. 3-6-4. Ah, ecco, boh. No, ma io. Sono d'accordo con lei, la ringrazio pure, perché l'avevo detto all'inizio, io segnalavo qualcuno, no? Di queste ne segnalavo alcune e poi altre arrivano da voi, e le sue due sono opportune indubbiamente, perché Jovetic è un giovane di grandi qualità, di grandi risorse, soltanto un po' troppo ancora innamorato del pallone, ma insomma, mi pare che stia poco alla volta cominciando a guarire da questa malattia, che d'altra parte poi è tipica di chi ha talento e di chi è molto giovane. E Chiaer è un difensore su cui mi pareva che già nella fine della stagione scorsa molte squadroni avessero messo gli occhi, e è stato bravo il Palermo a tenerselo, ma non so per quanto ci riuscirà, perché questo, se continua di questo passo, lei ha ragione, è un difensore di grande livello, insomma. Da Brescia ha chiamato Davide, buongiorno. Buongiorno, bentornato. Volevo chiederle una cosa. Secondo lei, per quanto riguarda l'acquisto di Diego, sono stati più bravi i dirigenti della Juve che ci hanno creduto così tanto in questo giocatore, o sono stati meno bravi i dirigenti delle altre squadre a non volerlo prendere? Perché non mi sembra che ci sia stata una grande asta per questo giocatore, eppure si vede il valore che ha, e mi è piaciuto molto in queste due giornate. Grazie. Lo credo, Davide, ma adesso puoi dare le pagelle a chi ha trattato, non ha trattato, ha cercato, non ha cercato. Io penso che l'abbiamo cercato in tanti, poi è stata brava la Juventus alla fine a chiudere, ma insomma non starei poi a farla così lunga, perché questo poi si potrebbe fare per parecchi giocatori, non soltanto per Diego certamente oggi è probabilmente, insomma, è uno degli affari migliori che si sono fatti nella stagione. Adesso siamo soltanto alla seconda giornata, quello che ha fatto ieri è stato notevolissimo. Non dimentichi che contro la difesa della Roma, comunque, non solo in questo inizio di stagione, ma per tutta la stagione scorsa, la difesa della Roma è sinonimo di colabrodo proprio. Quindi diciamo che la brillantezza, la perentorietà e il tasso tecnico anche con cui Diego li ha infilati due volte danno prospettive di poter definire campione questo giocatore, ma poi ci vuole sempre ancora qualche controprova in più magari. Cristian ha chiamato dalla provincia di Chieti. Salve dottor Garanzini, è un buongiorno. Piacere parlare con lei. Io sono tifoso milanese. Sì. Per niente stupito da questa situazione, però molto arrabbiato. In pratica io non è che ho avuto un stato calcistico chissà quale esperienza ho fatto, però nei dilettanti ci ho giocato e ho avuto la fortuna di essere allenato da Gian Marinaro. In pratica, per dire questa premessa, per dire cosa? Cioè, certe cose negli spogliatoi, anche a livello dilettantistico, vengono fuori. Ora, il mio dubbio è questo, è che il povero Leonardo sia stato messo lì per traghettare non so dove questa squadra, dopo che noi per un bel pezzo abbiamo avuto un signore come uomo e un grande allenatore, perché per me Ancelotti è un grande allenatore, per dar spazio agli sfoghi del nostro presidente, uno su tutti, Ronaldinho, che mi ricordo forse, non so se 4 o 5 anni fa, Arrigo Sacchi disse che il Barcellona, quando lui era al Barcellona, non girava perché Ronaldinho era un fuoriclasse, ma perché il Barcellona era una grandissima squadra. E se Ronaldinho lo si metteva fuori, non è che se ne accorgeva qualcuno. ora, con tutto quello che fa, a prescindere da, da qualsiasi giudizio tecnico, cioè Ronaldinho è un giocatore regalato, nel senso che è uno che in mezzo al campo, secondo me, ha già dato tutto quello che doveva dare prima e non si può pretendere di più. Due, una tirata d'orecchie a Gattuso per domenica, cioè un professionista come lui non può scendere in campo a quelle condizioni. Sì, neanche, neanche se deve farsi trovare impreparato a quella maniera. Era, l'ascoltatore precedente era abbastanza duro nei confronti di, beh, della gestione attuale del Milan, di Ronaldinho, ha anche esagerato un po', parlando del Ronaldinho di Barcellona. Il Ronaldinho di Barcellona è stato Ronaldinho 1 e Ronaldinho 2, per i primi tempi era un giocatore determinante e decisivo, poi in coincidenza assoluta a parer mio, se non ricordo male, con quel famoso spot delle quattro traverse consecutive, insomma, lì più o meno è finito Ronaldinho e lì, a distanza di qualche mese ha cominciato a innamorarsi del Milan, il presidente del Milan, e poi da, da lì tutto, tutto. C'è un altro particolare però che volevo sottolineare appunto all'ascoltatore, che mi spiace non, non è più in onda, ma parlava della, ha ricordato Gian Marinaro che insomma, un vecchio storico giocatore degli anni 40-50 e poi un bravo allenatore di categorie minori, diciamo. Leonardo indubbiamente non, non, insomma, non, non sembra ancora così, come dire, così a suo agio sulla, sulla banchina del Milan, ma c'è secondo me un distinguo abbastanza incredibile da fare, che è questo: Leonardo non lo voleva fare l'allenatore del Milan, l'ha detto in tutte le maniere, cioè, a differenza di Ferrara, perché tutti a passare l'estate a dire Ferrara e Leonardo, Leonardo e Ferrara, le panchine della Juve del Milan affidate a due debuttanti, sì, ma con una differenza fondamentale, che Ferrara l'allenatore intanto l'aveva già fatto come, come vice, se non altro di Vialli, di Vialli, di Lippi, e quindi avendo come minimo maturato un po' l'esperienza in, in nazionale, e soprattutto quello era il suo futuro, quello era quello che lui voleva fare. Leonardo tutto voleva fare meno che l'allenatore, ci ha provato a dirlo in tutte le maniere, l'hanno costretto a farlo, se adesso non è esattamente a suo agio nel ruolo, direi che di tutto ci si può stupire, ma non di quello, secondo me, per il momento almeno. Poi magari facendo un po' d'esperienza può darsi che diventi, che si convinca lui stesso di voler fare l'allenatore, cosa che quando gli era stata prospettata la scelta non mi pare avesse tantomeno caldeggiato. Luigi è in linea da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Ma io sono anch'io un tifoso milanista e sono però un po' in controtendenza, a parte che sono convinto anch'io che bisogna dare un po' di tempo a Leonardo, perché sicuramente qualcosa di buono potrà farlo. Io personalmente ritengo che il Milan non sia poi così malaccio, non credo che Siena sia stata così male e che con l'Inter sia stata, ci sono tante cose che sono successe. Io sono convinto di una cosa: il Milan manca dei due esterni, soprattutto a sinistra con Jankulowski, che non, da, da quando è venuto via dall'Udinese non ha mai mostrato quello che aveva dimostrato lì. Con un due esterni fatti bene, il Milan credo che abbia una squadra da poter competere, magari non per lo scudetto, ma comunque come l'anno scorso per la Champions. Grazie. Sì, beh, d'accordo, infatti, però non è, non è esattamente questo il progetto, e non è quello, il progetto di vertice intendo, e non è neanche quello che insomma, i tifosi si aspettano, cioè quello di competere per un ruolo di rincalzo, non credo perlomeno che sia così. Leonardo, visto che ne stiamo parlando, qualche frammento di sabato, cioè per esempio quando spiega, tra l'altro con questo suo splendido, in questo suo splendido italiano, perché Leonardo parla, vabbè, portoghese è la lingua madre, ma parla l'italiano con la disinvoltura assoluta, così come parla altre quattro lingue a questo livello oltre al portoghese. E non è detto davvero, anche sentendolo parlare, che non avesse ragione lui quando diceva lasciatemi fare altro, no? Perché probabilmente era più versato per altre situazioni, e poi invece magari facendo esperienza diventerà anche un grande allenatore. Sentiamolo. Credo che l'idea non sono tre punte, io credo che l'idea era 4-3-1-2 con Ronaldinho che faceva sicuramente, cambiando il giocatore cambia un po' il modo di giocare, se pensiamo a chi ha fatto la mezza punta, nel senso con l'Inter, che Sneijder è un giocatore diverso di Ronaldinho, Stankovic fa la mezza punta e è diverso di questi due giocatori. Ronaldinho è una mezza punta che sicuramente ha questa facilità in attacco e si mette in una posizione più avanzata, per quello sicuramente per sostenere sostenere questo modulo ci vuole sicuramente una compattezza, ci vuole sicuramente essere corti e veramente molto vicini uno dell'altro. Io credo che siamo stati così, anche se non eravamo brillanti in attacco, siamo stati così nella prima mezz'ora. Dopo io credo che dinamismo arriva, sono due partite, non possiamo neanche giudicare diciamo tutta la squadra per due partite, ci sono ancora tante cose da fare, ma credo che sono state fatte anche cose molto buone. Beh, è anche in Italia da 10 anni, Leonardo, per la verità, però parla davvero un'Italia alta fine, in Italia da 50, però cioè, tra l'italiano di Leonardo e quello di alta fine direi che non c'è, anche se quello di alta fine è pittoresco e delizioso per la sua parte, ma insomma dal punto di vista qualitativo quello di Leonardo è un'altra cosa. Domenico ha chiamato dalla provincia di La Spezia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, volevo fare intanto i complimenti a chi l'ha preceduta, che l'ha sostituita per un mese, bravissimo, un bravo davvero, oltre a lei che chiaramente chiamo ogni tanto. Volevo dire che io ho sentito per tutto l'arco dell'estate che il gap tra Juventus e Inter attraverso gli acquisti della Juve si sia ridotto, volevo sentire una sua opinione. Se poi posso, le do la mia però. No, ma la dica subito, che così ci leviamo il pensiero. No, la mia è che i 10 punti dell'anno scorso, in base alle squadre costruite dall'una e dall'altra, ci rimangono tutti quanti, tra l'una e l'altra. E due, penso che in qualunque caso, se Berlusconi avesse bisogno di un allenatore a chi proporre la fazione, io mi faccio avanti. E mancava, non le dico cosa avrebbe detto il Paron in risposta, cosa mancava. No, Domenico, a parte le battute, a parte le gag, io la penso abbastanza come lei, cioè se prendo le formazioni base e le rose, soprattutto le rose delle due squadre, penso che poi indovinare quanti punti ci siano, no, questo mi sembra un po' un tantinello più difficile. Che le distanze si siano ridotte poi relativamente, lo penso anch'io, perché mi pare che uomo per uomo, reparto per reparto e soprattutto rosa per rosa, per 3-14 mi verrebbe, arrivando fino a 22 circa giocatori, l'Inter sia ancora abbastanza nettamente davanti. Tenga conto che ha avuto un ulteriore guizzo negli ultimi giorni con Sneijder, no? Che è indubbiamente un altro giocatore di qualità. E tra l'altro, a questo proposito, quando parleremo di calcio internazionale con Tavelli, Rogero e gli altri, vorrei poi anche sentire quanto condividono la folle politica di Florentino Perez di quest'estate, sia in entrata, che è stata veramente super folle, che anche in uscita, perché quando c'è Robben e Sneijder, insomma, io uno dei due, così tanto per farmi compagnia, forse me lo tengo, uno dei due perlomeno. E non mi pare un caso che sia Robben che Sneijder al loro debutto a Monaco, 2 gol di Robben col Bayern, e a San Siro, senza segnare, ma che partita ha giocato Sneijder, non mi sembra un caso che questi due giocatori abbiano fatto una figura così brillante, giocando nell'Inter e nel Bayern, non in due squadrette qualunque. Lino, provincia di Livorno, buongiorno. Buongiorno signor Garantini. Dica, senta, Lino. Io volevo ritornare 2 passi indietro all'ultima vittoria di Champions del Milan. Sì. Lì si è creata proprio la tragicommedia, perché il signor Berlusconi, che io stimo, doveva dire: siamo riusciti faticosamente a chiudere un ciclo con quest'ultima vittoria. A questo punto io per primo e voi tutti quanti riteniamoci in libertà. Chi vuole allogarsi presso un'altra squadra, se ha già la possibilità di farlo, il Milan deve essere rinnovato e ricominciare un ciclo, perché praticamente questo risultato è venuto, diciamo, per grazia di Dio. Oltre non possiamo andare. Lino, questo è il mio pensiero. Da lì è divenuta la tragedia. Questa, no, ma lei ha certamente ragione. Mi scusi se tronco un pochino, ma siamo in chiusura di trasmissione. Lei ha certamente ragione. Questo intervento, insomma, ne riecheggia altri che sono stati fatti in un recente passato. Perché è vero che, visto adesso, tutto è cominciato da lì. È anche vero, però mi consenta, no? Visto che sta cosa, è anche vero che non l'ha mai fatto nessuno un discorso del genere nella storia, ma non solo del calcio, perché quello è il momento in cui diventa più difficile farlo. Vale per nazionali, vale per squadre di club, se ci limitiamo al calcio, ripeto, ma potremmo andare oltre, e non si può fargli una colpa a parer mio. Diciamo che la lungimiranza questo avrebbe suggerito. Mi scuso con Alberto da Reggio Emilia, che è rimasto appeso e che lo sarà fino a domani, no? Nel senso che lo richiamiamo domani con grande piacere. Grazie a Fabio Cantadori in regia, grazie a Flavio Suardi in redazione. Appuntamento regolarmente domani alle 14.